Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Sulle imprese da lui compiute nei boschi durante la guerra, Cosimo ne raccontò tante e talmente incredibili che da avallare una versione o un'altra io non me la sento. Lascio la parola a lui, riportando fedelmente qualcuno dei suoi racconti. Nel bosco s'avventuravano pattuglie ed esploratori degli opposti eserciti. Dall'alto dei rami, a ogni passo che sentivo tonfare tra i cespugli, io tendevo l'orecchio per capire se era di austrosardi o di francesi. Un tenentino austriaco, biondo, comandava una pattuglia di soldati in perfetta divisa, con codino e fiocco, tricorno e uosa, bande bianche incrociate, fucile e baionetta, e li faceva marciare in fila per due, cercando di tenere l'allineamento in quegli scoscesi sentieri. Ignaro di come fosse fatto il bosco, ma sicuro di eseguire a puntino gli ordini ricevuti, l'ufficialetto procedeva secondo le linee tracciate sulla carta, prendendo continuamente delle nasate contro i tronchi, facendo scivolare la truppa con le scarpe chiodate su pietre lisce o cavar gli occhi nei roveti, ma sempre conscio della supremazia delle armi imperiali. Erano dei magnifici soldati. Io li attendevo al varco nascosto su di un pino. Avevo in mano una pigna da mezzo chilo e la lasciai cadere sulla testa del serrafila. Il fante allargò le braccia, piegò le ginocchia e cadde tra le felci del sottobosco. Nessuno se ne accorse, la squadra continuò la sua marcia. Li raggiunsi ancora, questa volta buttai un porco spino appallottolato sul collo d'un caporale. Il caporale reclinò il capo e svenne. Il tenente stavolta osservò il fatto, mandò due uomini a prendere una barella e proseguì. La pattuglia, come se lo facesse apposta, andava a impelagarsi nei più fitti ginepraj di tutto il bosco e l'aspettava sempre un nuovo agguato. Avevo raccolto in un cartoccio certi bruchi pelosi, azzurri, che a toccarli facevano gonfiare la pelle peggio dell'ortica, e gliene feci piovere addosso un centinaio. Il plutone passò, sparì nel folto, riemerse grattandosi con le mani e i visi tutti bollicine rosse e marciò avanti. Meravigliosa truppa e magnifico ufficiale. Tutto nel bosco gli era così estraneo che non distingueva quel che era d'insolito e proseguiva con gli effettivi decimati, ma sempre fieri e indomabili. Ricorsi allora a una famiglia di gatti selvatici. Li lanciavo per la coda dopo averli mulinati un po' per aria, cosa che li adirava oltre ogni dire. Ci fu molto rumore, specialmente Filino, poi silenzio e tregua. Gli austriaci medicavano i feriti. La pattuglia biancheggiante di bende riprese la sua marcia. «Qui l'unica è cercare di farli prigionieri», mi dissi, affrettandomi a precederli, sperando di trovare una pattuglia francese da avvertire dell'approssimarsi dei nemici. Ma da un pezzo i francesi su quel fronte sembravano non dar più segno di vita. Mentre sorpassavo certi luoghi muscosi, vidi muovere qualcosa. Mi soffermai, tesi l'orecchio. Si sentiva una specie d'acciottolio di ruscello, che poi andò scandendosi in un borbottio continuato, e ora si potevano distinguere parole come «Mais alors, crénom de, foute-moi donc, tu m'aimes quoi?» Aguzzando gli occhi nella penombra, vidi che quella soffice vegetazione era composta soprattutto di colbacchi pelosi e folti baffi e barbe. Era un plutone di usseri francesi. Impregnatosi d'umidità durante la campagna invernale, tutto il loro pelo andava a primavera fiorendo di muffe e muschio. Comandava all'avamposto il tenente Agrippa Papillon, da Rouen, poeta, volontario nell'armata repubblicana. Persuaso della generale bontà della natura, il tenente Papillon non voleva che i suoi soldati si scrollassero gli aghi di pino, i ricci di castagna, i rametti, le foglie, le lumache che s'attaccavano loro addosso nell'attraversare il bosco. E la pattuglia stava già tanto fondendosi con la natura circostante che ci voleva proprio il mio occhio esercitato per scorgerla. Tra i suoi soldati bivaccanti, l'ufficiale poeta coi lunghi capelli inanellati che gli incorniciavano il magro viso sotto il cappello a lucerna declamava i boschi. «O foresta, o notte, eccomi in vostra balia. Un tenero ramo di Capelvenere, avvinghiato la caviglia di questi prodi soldati, potrà dunque fermare il destino della Francia. O Valmy, quanto sei lontana!» Mi fece avanti. «Pardon, citoyen! Che? Chi è là?» «Un patriota di questi boschi, cittadino ufficiale. Ah, qui? Dov'è? Dritto sul vostro naso, cittadino ufficiale. Vedo. Che è là? Un uomo uccello, un figlio delle arpie. Siete forse una creatura mitologica? Sono il cittadino Rondò, figlio d'esseri umani, v'assicuro, sia da parte di padre che di madre, cittadino ufficiale. Anzi, ebbi per madre un valoroso soldato ai tempi delle guerre di successione. Capisco. Oh, tempi, oh, gloria. Vi credo, cittadino, e sono ansioso d'ascoltare le notizie che sembrate venuto ad annunziarmi. Una pattuglia austriaca sta penetrando nelle vostre linee. Che dite? È la battaglia, è l'ora! Oh ruscello, mite ruscello! Ecco, tra poco sarai tinto di sangue! Su via! Allarmi! Ai comandi del tenente poeta, gli usseri andavano radunando armi e robe, ma si muovevano in modo così sventato e fiacco, stirandosi, scatarrando, imprecando, che cominciai a essere preoccupato della loro efficienza militare. Cittadino ufficiale, avete un piano? Un piano? Marciare sul nemico! Sì, ma come? Come? A ranghi serrati? Ebbene, se permettete un consiglio, io terrei i soldati fermi, in ordine sparso, lasciando che la pattuglia nemica si intrappoli da sé. Il tenente Papillon era un uomo accomodante e non fece obiezione al mio piano. Gli usseri sparsi nel bosco mal si distinguevano dai cespi di verzura. Il tenente austriaco certo era il meno adatto ad afferrare questa differenza. La pattuglia imperiale marciava seguendo l'itinerario tracciato sulla carta, ogni tanto con un brusco «per fila destra» o «per fila sinistra». Così passarono sotto il naso degli usseri francesi senza accorgersene. Gli usseri silenziosi, propagando intorno solo rumori naturali come stormir di fronde frullidali, si disposero in manovra girante. Dall'alto degli alberi io segnalavo loro con il fischio della coturnice o il grido della civetta gli spostamenti delle truppe nemiche e le scorciatoie che dovevano prendere. Gli austriaci all'oscuro di tutto erano in trappola. «Alto là! In nome della libertà, fraternità e uguaglianza vi dichiaro tutti prigionieri!» sentirono gridare tutto a un tratto da un albero ed apparve tra i rami un'ombra umana che brandiva un fucilaccio dalla lunga canna. «Urrà! Vive la nation!» E tutti i cespugli intorno si rivelarono usseri francesi, con alla testa il tenente Papillon. Risuonarono cupe imprecazioni austrosarde, ma prima che avessero potuto reagire, erano già stati disarmati. Il tenente austriaco, pallido ma a fronte alta, consegnò la spada al collega nemico. Diventai un prezioso collaboratore dell'armata repubblicana, ma preferivo fare le mie cacce da solo, valendomi dell'aiuto degli animali della foresta, come la volta in cui misi in fuga una colonna austriaca scaraventando loro addosso un nido di vespe. La mia fama s'era sparsa nel campo austrosardo, amplificata al punto che si diceva che il bosco pullulasse di giacobini armati nascosti in cima agli alberi. Andando, le truppe reali ed imperiali tendevano l'orecchio. Al più lieve tonfo di castagna sgranata dal riccio o al più sottile squittio di scoiattolo già si vedevano circondati dai giacobini e cambiavano strada. A questo modo, provocando rumori e fruscii appena percettibili, facevo deviare le colonne piemontesi e austriache e riuscivo a condurle dove volevo. Un giorno ne portai una in una fitta macchia spinosa e ve la feci perdere. Nella macchia era nascosta una famiglia di cinghiali. Stanati dai monti dove tuonava il cannone, i cinghiali scendevano a branchi a rifugiarsi nei boschi più bassi. Gli austriaci smarriti marciavano senza vedere a un palmo dal naso. E tutto a un tratto un branco di cinghiali irsuti si levò sotto i loro piedi, emettendo grugniti lancinanti. Proiettati a grifo avanti, i bestioni si cacciavano tra le ginocchia d'ogni soldato sbalzandoli in aria e calpestavano i caduti con una valanga da appuntiti zoccoli e infilavano zannate nelle pance. L'intero battaglione fu travolto. Appostato sugli alberi insieme ai miei compagni, li inseguivamo a colpi di fucile. Quelli che tornarono al campo raccontarono chi d'un terremoto che aveva d'improvviso squassato sotto i loro piedi il terreno spinoso, chi d'una battaglia contro una banda di giacobini scaturiti da sotterra, perché questi giacobini altro non erano che diavoli, mezzo uomo e mezzo bestia, che vivevano o sugli alberi o nel fondo dei cespugli. V'ho detto che preferivo compiere i miei colpi da solo o con quei pochi compagni d'ombrosa rifugiatisi con me nei boschi dopo la vendemmia. Con l'armata francese cercavo d'avere a che fare meno che potevo, perché gli eserciti si sa come sono. Ogni volta che si muovono, combinano disastri. Però m'ero affezionato all'avamposto del tenente Papillon ed ero non poco preoccupato per la sua sorte. Infatti, al plotone comandato dal poeta, l'immobilità del fronte minacciava d'essere fatale. Muschi e licheni crescevano sulle divise dei soldati e talvolta anche eriche e felci. In cima ai colbacchi facevano il nido gli scriccioli o spuntavano e fiorivano piante di mughetto. Gli stivali si saldavano col terriccio in uno zoccolo compatto. Tutto il plotone stava per mettere radici. L'arrendevolezza verso la natura del tenente Agrippa Papillon faceva sprofondare quel manipolo di valorosi in un'amalgama animale e vegetale. Bisognava svegliarli, ma come? Ebbi un'idea e mi presentai al tenente Papillon per proporgliela. Il poeta stava declamando alla luna. «O luna, tonda come una bocca da fuoco, come una palla di cannone che esausta ormai la spinta delle polveri, continua la sua lenta traiettoria rotolando silenziosa per i cieli. Quando deflagrerai, luna, sollevando un'alta nube di polvere e faville, sommergendo gli eserciti nemici e i troni e aprendo a me una breccia di gloria nel muro compatto della scarsa considerazione in cui mi tengono i miei concittadini. O Rouen, o luna, o sorte, o convenzione, o rane, o fanciulle, o vita mia, e io, citoyen? Papillon, seccato d'essere sempre interrotto, disse secco: «Ebbene? Volevo dire, cittadino ufficiale, che ci sarebbe il sistema di svegliare i vostri uomini da un letargo ormai pericoloso. Lo volesse il cielo, cittadino, io come vedete mi struggo per l'azione. E quale sarebbe questo sistema? Le pulci, cittadino ufficiale. Mi dispiace disilludervi, cittadino, l'esercito repubblicano non ha pulci. Sono tutte morte di inedia per le conseguenze del blocco e il caro vita. Io posso fornirvele, cittadino ufficiale. Non so se parlate da seno o per celia, comunque farò un esposto ai comandi superiori e si vedrà. Cittadino, io vi ringrazio per quello che voi fate per la causa repubblicana. O gloria, o Rouen, o pulci, o luna!» E s'allontanò farneticando. Compresi che dovevo agire di mia iniziativa. Mi provvidi di una gran quantità di pulci e dagli alberi, appena vedevo un ussero francese, con la cerbottana gliene tiravo una addosso, cercando con la mia precisa mira di fargliela entrare nel colletto. Poi cominciai a cospargerne tutto il reparto a manciate. Erano missioni pericolose, perché se fossi stato colto sul fatto, a nulla mi sarebbe valsa la fama di patriota, ma avrebbero preso prigioniero, portato in Francia e ghigliottinato come un emissario di Pitt. Invece il mio intervento fu provvidenziale. Il prurito delle pulci riaccese acuto negli usseri l'umano e civile bisogno di grattarsi, di frugarsi, di spidocchiarsi. Buttavano all'aria gli indumenti muschiosi, gli zaini ed i fardelli ricoperti di funghi e ragnatele, si lavavano, si radevano, si pettinavano, insomma riprendevano coscienza della loro umanità individuale e li riguadagnava il senso della civiltà, dell'affrancamento dalla natura bruta. In più li pungeva uno stimolo d'attività, uno zelo, una combattività da tempo dimenticati. Il momento dell'attacco li trovò pervasi da questo slancio. Le armate della Repubblica ebbero ragione della resistenza nemica, travolsero il fronte ed avanzarono fino alle vittorie di Dego e di Millesimo. Da Ombrosa, nostra sorella e l'emigrato d'Estomac scapparono giusto in tempo per non essere catturati dall'esercito repubblicano. Il popolo d'Ombrosa pareva tornato ai giorni della vendemmia. Alzarono l'albero della libertà, stavolta più conforme agli esempi francesi, cioè un po' rassomigliante a un albero della cuccagna. Cosimo, manco a dirlo, ci si arrampicò, col berretto frigio in testa, ma si stancò subito e andò via. Intorno ai palazzi dei nobili ci fu un po' di chiasso, delle grida: «Aristò, Aristò, alla lanterna, sairà!» A me, tra che ero fratello di mio fratello e che siamo sempre stati nobili da poco, mi lasciarono in pace. Anzi, in seguito mi considerarono pure un patriota. Così, quando cambiò di nuovo, ebbi dei guai. Misero su la municipalité, il maire, tutto alla francese. Mio fratello fu nominato nella giunta provvisoria, sebbene molti non fossero d'accordo tenendolo in conto di demente. Quelli del vecchio regime ridevano e dicevano che era tutta una gabbia di matti. Le sedute della giunta si tenevano nell'antico palazzo del governatore genovese. Cosimo s'appollaiava su un carrubo all'altezza delle finestre e seguiva le discussioni. Alle volte interveniva vociando e dava il suo voto. Si sa che i rivoluzionari sono più formalisti dei conservatori. Trovavano da ridire che era un sistema che non andava, che sminuiva il decoro dell'assemblea e così via. E quando al posto della Repubblica Oligarchica di Genova misero su la Repubblica Ligure, nella nuova amministrazione non elessero più mio fratello. E dire che Cosimo in quel tempo aveva scritto e diffuso un progetto di costituzione per città repubblicana con dichiarazione dei diritti degli uomini, delle donne, dei bambini, degli animali domestici e selvatici, compresi uccelli, pesci e insetti, e delle piante, sia ad alto fusto, sia ortaggi ed erbe. Era un bellissimo lavoro, che poteva servire d'orientamento a tutti i governanti. Invece nessuno lo prese in considerazione e restò lettera morta. Ma il più del suo tempo Cosimo lo passava ancora nel bosco, dove gli zappatori del genio dell'armata francese aprivano una strada per il trasporto delle artiglierie. Con le lunghe barbe che uscivano di sotto i colbacchi e si perdevano nei grembiuloni di cuoio, gli zappatori erano diversi da tutti gli altri militari. Forse questo dipendeva dal fatto che dietro di sé essi non portavano quella scia di disastri e di sciupio delle altre truppe, ma invece la soddisfazione di cose che restavano e l'ambizione di farle meglio che potevano. Poi avevano tante cose da raccontare. Avevano attraversato nazioni, vissuto assedi e battaglie. Alcuni di loro avevano anche visto le gran cose passate là a Parigi, sbastigliamenti e ghigliottine. E Cosimo passava le sere ad ascoltarli. Riposte le zappe e le pale, sedevano attorno a un fuoco, fumando corte pipe e rivangando ricordi. Di giorno Cosimo aiutava i tracciatori a delineare il percorso della strada. Nessuno meglio di lui era in grado di farlo. Sapeva tutti i passi per cui la carreggiabile poteva passare con minor dislivello e minor perdita di piante. E sempre aveva in mente, più che le artiglierie francesi, i bisogni delle popolazioni di quei paesi senza strade. Almeno di tutto quel passaggio di soldati rubagalline ne veniva un vantaggio, una strada fatta a spese loro. Manco male, perché ormai le truppe occupanti, specie da quando da repubblicane erano diventate imperiali, stavano sullo stomaco a tutti. E tutti andavano a sfogarsi coi patrioti. Vedete i vostri amici cosa fanno? E i patrioti ad allargare le braccia, ad alzare gli occhi al cielo, a rispondere: ma soldati, speriamo che passi. Dalle stalle i napoleonici requisivano maiali, mucche, perfino capre. Quanto a tasse a decime era peggio di prima. In più ci si mise il servizio di leva. Questa ad andar soldato da noi nessuno l'ha mai voluta capire e i giovani chiamati si rifugiavano nei boschi. Cosimo faceva quel che poteva per alleviare questi mali. Sorvegliava il bestiame nel bosco quando i piccoli proprietari, per paura di una razzia, lo mandavano alla macchia, o faceva la guardia per i trasporti clandestini di grano al mulino o d'olive al frantoio, in modo che i napoleonici non venissero a prendersene una parte, o indicava ai giovani di leva le caverne del bosco dove potevano nascondersi. Insomma, cercava di difendere il popolo dalle prepotenze. Ma attacchi contro le truppe occupanti non ne fece mai, sebbene a quel tempo per i boschi cominciassero a girare bande armate di barbetti che rendevano la vita difficile ai francesi. Cosimo, testardo com'era, non voleva mai smentirsi. Ed essendo stato amico dei francesi prima, continuava a pensare di dover essere leale, anche se tante cose erano cambiate ed era tutto diverso da come si aspettava. Poi bisogna anche tener conto che cominciava a venir vecchio e non si dava più molto da fare ormai, né da una parte né dall'altra. Napoleone andò a Milano a farsi incoronare e poi fece qualche viaggio per l'Italia. In ogni città l'accoglievano con grandi feste e lo portavano a vedere le rarità e i monumenti. A Ombrosa misero nel programma anche una visita al patriota in cima agli alberi. Perché, come succede, a Cosimo qui da noi nessuno gli badava, ma fuori era molto nominato, specie all'estero. Non fu un incontro alla buona. Era tutto una cosa predisposta dal comitato municipale dei festeggiamenti per fare bella figura. Si scelse un bell'albero. Lo volevano di quercia, ma quello meglio esposto era di noce. E allora truccarono il noce con un po' di fogliame di quercia, ci misero dei nastri col tricolore francese e il tricolore lombardo, delle coccarde, delle gale. Mio fratello lo fecero appollaiare lassù, vestito da festa ma col caratteristico berretto di pel di gatto e uno scoiattolo in spalla. Tutto era fissato per le 10. C'era un gran cerchio di folla intorno, ma naturalmente fino alle 11:30 Napoleone non si vide. Con gran fastidio di mio fratello che invecchiando cominciava a soffrire alla vescica e ogni tanto doveva nascondersi dietro il tronco a urinare. Venne l'imperatore, col seguito tutto beccheggiante di feluche. Era già mezzogiorno. Napoleone guardava su tra i rami verso Cosimo e aveva il sole negli occhi. Cominciò a rivolgere a Cosimo 4 frasi di circostanza. «Je sais très bien que vous, citoyen...» e si faceva solecchio. «Parmi les forêts...» e faceva il saltino in qua perché il sole non gli battesse proprio sugli occhi. «Parmi les frondaisons de votre luxuriante...» e faceva un saltino in là perché Cosimo, in un inchino d'assenso, gli aveva di nuovo scoperto il sole. Vedendo l'inquietudine di Bonaparte, Cosimo domandò cortese: «Posso fare qualcosa per voi, mon empereur?» «Sì, sì», disse Napoleone. «Statevene un po' più in qua, ve ne prego, per ripararmi dal sole. Ecco, così, fermo». Poi si tacque, come assalito da un pensiero rivolto al viceré Eugenio. «Tu sei là, me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu». Cosimo gli venne in aiuto. «Non eravate voi, maestà, era Alessandro Magno». «Ah, ma certo», fece Napoleone, «l'incontro di Alessandro e Diogene». «Vous n'oubliez jamais votre Plutarque, mon empereur», disse il Beauharnais. «Solo che allora», soggiunse Cosimo, «era Alessandro a domandare a Diogene cosa poteva fare per lui». E Diogene a pregarlo di scostarsi. Napoleone fece schioccare le dita come avesse finalmente trovato la frase che andava cercando. S'assicurò con un'occhiata che i dignitari del seguito lo stessero ascoltando e disse in ottimo italiano: «Se io non era l'imperator Napoleone, avrei voluto ben essere il cittadino Cosimo Rondò». E si voltò e andò via. Il seguito gli tenne dietro con un gran rumore di speroni. Tutto finì lì. Ci si sarebbe aspettato che entro una settimana arrivasse a Cosimo la croce della Legion d'Onore, invece niente. Mio fratello magari se ne infischiava, ma a noi, in famiglia, avrebbe fatto piacere.